orgoglio ancestrale. Non me la prendo mai con chi non sa contraccambiare. Odio la mia misantropia, non ho più voglia di osservare, vedere solo cose che mi fanno vomitare. Sono rimasto nel mio ideale, sono un uomo, credo in grandi utopie, sogni perduti e ritrovati, sogni perduti. E non lo so spiegare, che scatto animale, alcune cose fanno male, trovo il pensare, è un orgoglio ancestrale, orgoglio ancestrale, orgoglio ancestrale, orgoglio ancestrale, orgoglio ancestrale, centrale, centrale. No, non lo so spiegare, che scatto animale, alcune cose fanno male, trovo il pensare, è un orgoglio ancestrale, orgoglio ancestrale. Già spiegare il mio scatto animale, alcune cose fanno male, trovi a pensare, è un orgoglio ancestrale, orgoglio ancestrale. Scatto animale.